illusa e sa che il mondo in un battito di ciglia si è incartato su se stesso e adesso più non ci assomiglia. Per esempio, ultimamente mi succedono cose strane, tipo gente che si gira e senza motivo mi tratta come un cane. E lo scarico dei motorini ha un prodotto in me, uno strano complesso che vorrei essere uguale a tutti allo stesso tempo, essere me stesso. Marina, non vegliare, credi, è solo tempo che deve passare. Tornerà un giorno la gente a darci pacche sulle spalle. Marina, non sbagliarti adesso, tu me lo insegnasti te, che per riconciliarsi con il mondo a volte basta un caffè freddo. Marina è disillusa e sa che il mondo in un battito di ciglia si è incartato su se stesso e adesso più non ci assomiglia. Per esempio, ultimamente mi succedono in casa cose astruse, tipo piante che mi muoiono senza campare, ragioni o scuse. E poi c'è caldo d'inverno e freddo d'estate, la TV mi plagia, il frigo vuoto mi fa i conti in tasca e la valigia implora di andarmene. Sembra ordinarmi, è l'ora di andare a dormire. Marina, non vegliare, credi, la casa crolla e noi ce ne scappiamo, con le gambe in spalla e coi pensieri inesistenti. Marina, non sbagliarti adesso, tu me lo insegnasti te, che per riconciliarsi con il mondo a volte basta un caffè freddo.